7, 8 e 9 giugno, Coast to Coast Mediterranean Festival, il primo festival di Mediterranea a Bologna e che vede la partecipazione di tanti artisti e artiste che si sono messi in gioco per non rimanere in silenzio e per prendere parola su quanto sta accadendo nel Mar Mediterraneo. Un festival che si dirama tra il TPO e la BA, che vede la prima giornata di venerdì 7 al centro sociale TPO con uno spettacolo di tessuti aerei di Altro Circo News, mentre sabato 8 e domenica 9 saremo alla BA, sabato con una prima parte di reading in Arena Orfeonica che vedrà sul palco Alessandro Bergonzoni, Wu Ming, Lo Stato Sociale, Emidio Clementi e Massimo Carozzi, seguito da una parte di concerti nel quadriportico di Vicolo Bolognetti numero 2 con Suz e Davide Angelica, Kyle, Natty Dub e Antonio De Donno e il DJ set di God Bless Computer. Tutta la giornata di sabato vedrà gli allestimenti di P-Brain, Monica Cuoghi e Corsello, il live painting di Vermi di Rouge, l'installazione di poliedrici e la mostra fotografica organizzata da Witness Journal. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, avremo un grande pranzo sociale che faremo sempre qui nel quadriportico di La BA, seguito da spettacoli adatti sia ad adulti che a bambini, con arti circensi, danza afro e spettacoli anche di tessuti e di live painting. Coast to Coast, appunto, il primo festival a Bologna, pensiamo che sarà il primo di una serie di giornate per finanziare Mediterranea Saving Human, una giornata che parte proprio dalla spinta di tante tante artisti bolognesi che si esibiranno in queste giornate, di tanti altri che non sono potute venire ma che appunto speriamo di intrecciare nelle prossime edizioni. Perfetto, ti chiedo magari solo due riferimenti per il costo, quindi quali saranno gli eventi a ingresso gratuito, quali invece quelli con un costo d'ingresso. Per quanto riguarda la giornata di venerdì e di domenica, l'evento sarà a ingresso gratuito o a offerta libera per quanto riguarda il venerdì, mentre la giornata di sabato ha un ingresso di 5 euro che comprende sia la parte dei reading che quella musicale, e tutto il ricavato appunto sarà devoluto a Mediterranea per tenere accesi i motori della Mar Ionio e i motori della Solidarietà.